Quando Gesù ebbe finito di dare i suoi avvertimenti ai suoi 12 discepoli, si mosse di là per insegnare e predicare nelle loro città. Or Giovanni, quando venne a sapere in prigione le opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e annunziate a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risorgono, e ai poveri viene annunziata la buona novella. Beato è colui che non si scandalizza di me». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Ma che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, coloro che indossano morbide vesti dimorano nei palazzi dei re. Ma perché siete andati? A vedere un profeta? Sì, vi dico, è più che un profeta. Di lui sta scritto: ecco, io mando avanti a te il mio messaggero, egli preparerà dinanzi a te la tua via. In verità vi dico, fra i nati di donna non è mai sorto uno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dal tempo di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli è oggetto di violenza, e i violenti vogliono impadronirsene. Infatti tutti i profeti e la legge fino a Giovanni l'hanno annunziato, e se volete capirlo, egli è l'Elia che deve venire. Chi ha orecchi intenda. A chi paragonerò questa generazione? È simile a ragazzi che stanno nelle piazze e rivolti ai compagni dicono: «Abbiamo per voi suonato e non avete danzato, abbiamo intonato lamenti e non avete pianto. È venuto Giovanni che non mangiava né beveva e si diceva: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e si dice: è un mangione e un beone, amico di pubblicani e peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere». Allora cominciò a inveire contro le città in cui aveva compiuto la maggior parte dei miracoli, perché non si erano convertite. «Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsaida! Poiché se i prodigi che sono stati compiuti in mezzo a voi fossero stati fatti a Tiro e Sidone, da tempo in cilicio e cenere avrebbero fatto penitenza. Ebbene, vi dico che nel giorno del giudizio la sorte che toccherà a Tiro e Sidone sarà più mite della vostra. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Sino agli inferi sarai precipitata. Poiché se a Sodoma fossero stati compiuti i prodigi che si sono compiuti in te, sarebbe rimasta fino ad oggi. Ebbene, vi dico che nel giorno del giudizio la sorte che toccherà alla terra di Sodoma sarà più mite della tua». In quell'occasione Gesù prese a dire: «Mi compiaccio con te, o Padre, Signore del cielo e della terra, che hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e ai saggi e le hai rivelate ai semplici. Sì, Padre, poiché tale è stato il tuo beneplacito. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, e io vi darò sollievo. Portate su di voi il mio giogo e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Poiché il mio giogo è soave e leggero è il mio peso».